Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, il nostro appuntamento con la stampa periodica italiana e non solo italiana. Ovviamente avvicinandosi il 40° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna, molta parte della stampa periodica si è concentrata proprio su questa ricorrenza. Avrete visto già giovedì la copertina del Corriere della Sera magazine Quel che resta della Luna, dedicato proprio con una bella fotografia dell'impronta dell'astronauta sul suolo lunare. Il venerdì, ieri, con questo titolo Stralunati e gli astronauti che furono protagonisti appunto nel 1969 dello storico momento, Buzz Aldrin, Michael Collins è il primo a sbarcare, il primo a toccare il suolo lunare, Neil Armstrong. E poi anche in altri giornali, anche se il tema non ha trovato la copertina, ovviamente ci sono molti servizi, molti ricordi soprattutto di questi servizi. Allora, ognuno poi ha proposto con diverso taglio che cosa può esserci rimasto da quella spedizione. Probabilmente ha un sapore diverso per chi ha potuto viverla e per chi invece l'ha solo sentita raccontare, perché è nato dopo il 1969, dopo quel 20 di luglio. Panorama, a questo proposito, ha fatto una scelta direi interessante, soprattutto per chi non c'era quella notte. Perché? Perché ha deciso di ripubblicare nel suo numero in edicola questa settimana i numeri di Panorama dell'epoca. E hanno riprodotto fotograficamente, avvisa uno stelloncino tra le pagine, i numeri 172 e 174 che erano del luglio e dell'agosto 1969 di Panorama, allora diretto da Lamberto Sechi. Viene allegato appunto questa riproduzione fotografica con tanto di copertina dell'epoca di quel Panorama del 69 al numero in edicola questa settimana. La copertina già è molto, molto importante, segnala questo sulla Luna con un punto esclamativo, e gli articoli che vengono riproposti sono proprio gli articoli originali. Possono aiutare, ripeto, soprattutto chi non c'era a capire che cos'è stato questo momento e come ha segnato poi anche gli anni futuri nel rapporto che si è poi sviluppato con la scienza, la tecnologia, non soltanto le esplorazioni spaziali, ma tutto il rapporto che potevamo avere, che potevamo nutrire nei confronti del progresso, in una parola sola. L'articolo che viene riprodotto per primo è I primi passi sulla Luna, 21 luglio 1969, ore 4:57, si intende l'ora italiana. Tranquility Base, the Eagle has landed. Queste parole, base tranquillità, l'aquila è atterrata, rimarranno famose nei secoli. Sono le prime che siano state pronunciate da un uomo sulla Luna. Le ha dette con voce atona, quasi fosse egli stesso trasformato in strumento capace di parlare, Neil Armstrong, comandante dell'astronave Aquila. Erano le 22:17, ora italiana, del 20 luglio 1969. Come sapete, l'atterraggio proprio del mezzo avvenne per noi nella tarda serata, e poi il primo passo invece quando il calendario era già mutato. In quel momento, prosegue l'articolo dell'epoca, ripeto, di 40 anni fa su Panorama, nonostante ogni cenno di rassicurazione da parte del centro di Houston, Armstrong era sotto shock. Le sue pulsazioni cardiache, normalmente intorno alle 70-75 al minuto, erano salite a 156. Il fragore sconvolgente di razzi frenanti del modulo lunare aveva accompagnato lui e il suo compagno d'avventura Edwin, detto Buzz Aldrin, per 19 minuti, gli ultimi dei quali avevano dato non a terra ma nell'aquila momenti di tensione e di impegno drammatici. Questo l'attacco con cui comincia l'articolo storico di Panorama che viene riprodotto, un lungo articolo che poi viene anche accompagnato dalla trascrizione minuto per minuto delle conversazioni che erano intercorse tra l'Apollo 11 e la base di comando a Houston nella fase appunto di atterraggio. Un numero successivo, pure riprodotto su Panorama di questa settimana, contiene una serie di fotografie delle prime passeggiate appunto degli astronauti sulla Luna. Questo il ricordo che ci propone Panorama. Come vi dicevo, ce ne sono in realtà molti altri che potete trovare sui vari settimanali. Anche Famiglia Cristiana dedica un dossier speciale, 20 luglio 1969, Volevamo la Luna. Anche qui tra passato e presente verrebbe da dire, cioè che cosa è successo, come è avvenuta la missione e poi che cosa invece ci è rimasto di tutta questa esplorazione lunare. Ad esempio, da Famiglia Cristiana ricordiamo che gli astronauti complessivamente sbarcati sulla Luna sono stati 12, il costo della missione lunare 24 miliardi, i litri di combustibile nei serbatoi del Saturno 5 erano 3,6 milioni, c'erano 24 chilometri di circuiti elettrici nel modulo di comando e si calcola ci siano 170.000 kg di materiale abbandonato, portato dall'uomo si intende, sulla superficie lunare. Abbiamo invece riportato a casa, cioè a terra, 382 kg di rocce lunari. A questo proposito c'è un altro bel documento d'epoca che viene proposto dal magazine del Corriere della Sera. Ed è l'articolo che firmò Oriana Fallaci, la collega, la giornalista scomparsa di recente, famosa per le sue interviste, anche per il suo modo decisamente inconsueto e diretto di approcciare la storia, di avvicinare la storia. Lo sbarco visto dalla Fallaci è il titolo con cui il magazine del Corriere della Sera riproduce questo articolo. Il titolo dell'epoca fu Quei guerrieri medievali, ve ne leggo qualche brano perché ne vale la pena. Ciò che vogliono a Houston, scriveva la Fallaci, è un poco di luna da studiare in laboratorio, per capire come nacque la luna e se nacque insieme alla Terra o prima o dopo e se sulla luna c'è vita. 146 gruppi di scienziati del nostro pianeta attendono con impazienza la loro preziosa porzione di luna. Geologi, selenologi, biologi, astronomi, che raccattino quello che trovano, dice il geologo Bell, sassi, sabbia, polvere, che se ne riempiano le tasche, che ne prendono il più possibile, e anche se va tutto male, se devono ripartire prima del previsto, quel poco di luna deve tornare sulla Terra, quindi bisogna che Armstrong la raccatti subito senza perdere tempo, una manciata di suolo come esempio. E qui la Oriana Fallaci descriveva come era possibile raccogliere questi materiali, perché c'era un problema: gli astronauti non potevano in quelle tute che adesso ci appaiono un po' goffe piegarsi, chinarsi verso il suolo, e quindi c'era uno strumento che lei descrive. Lo strumento per raccogliere il materiale lunare è un bussolottino col manico lungo, una specie di ramaiolo. La NASA ci ha studiato per anni e migliaia di dollari, assemblee si sono riunite per decidere l'ampiezza del bussolottino, la lunghezza del manico, la forma, la sostanza. Hanno vinto coloro che lo volevano di alluminio, col manico di 83 cm e mezzo, il fondo con un diametro di 17 cm e 4 mm, completato da un sacchetto di teflon. Ma l'operazione, scrive sempre la Fallaci, per raccogliere il suolo lunare è ancora più complicata. Consiste nel compiere il movimento che si fa con un ramaiolo per tirare su un poco di acqua. Gliel'hanno fatto fare centinaia e centinaia di volte, sebbene Armstrong ripetesse «Ho capito!». Il fatto è che deve essere un movimento gentile, quasi impercettibile. Con un sesto di gravità, ogni gesto brusco farebbe balzare la polvere di molti metri e qualche granello potrebbe finire tra i delicati congegni del LEM, cioè il modulo lunare che era atterrato sulla Luna. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, abbiamo rievocato quella notte del 20 luglio di 40 anni fa, siamo vicinissimi ormai al 40esimo anniversario dello sbarco sulla Luna. Torniamo più decisamente nel tempo presente con altre segnalazioni dai periodici. Cominciamo da una cosa più di curiosità, più leggera. C'è qualcosa che non conosce crisi, almeno così ci avverte il magazine del Corriere della Sera: il matrimonio. Non conosce conosce crisi nel senso delle spese per i matrimoni, perché per questo matrimonio si ha da spendere, non importa se c'è la crisi, tutto deve essere perfetto, dall'abito alla location del ricevimento fino alla scelta del fotografo. Secondo un sondaggio che è stato realizzato da un portale specializzato, nonostante la crisi, la spesa media degli italiani per dire di sì continua a essere parecchio alta, si parla di 21.200 euro, con una media di invitati che si aggira attorno ai 130 invitati. La cosa interessante è che viene proposta anche una classifica per regioni in una cartina che accompagna questa segnalazione del magazine del Corriere della Sera. In testa alla classifica risulta la Basilicata, 39.385 euro, poi viene la Campania con 25.874 euro e quindi l'Abruzzo, 25.820 euro. Più abbottonati i Liguri con 13.000 euro, gli Emiliani 14.000, i Veneti con 16.000. Quindi non c'è crisi, almeno per quanto riguarda le spese connesse alle cerimonie al momento delle nozze. C'è invece, si parla molto di crisi, si continua ovviamente a parlare di crisi. In questi giorni trovate con il Sole 24 Ore questo volume, Lezioni per il futuro, è il titolo, ed è la raccolta dei saggi che sono stati pubblicati dal Sole 24 Ore in queste settimane, proprio dedicati a comprendere la crisi, a capire che cosa è successo e anche come si fa a uscirne. Saggi che poi sono illustrati da tutta una serie di dati e di indicatori. Ci sono alcune sollecitazioni, alcuni pensieri, alcune considerazioni che vengono fatte da economisti, giornalisti, studiosi di economia, che in realtà sono anche molto comprensibili, direi, anche per chi non si occupa direttamente di queste cose. Ad esempio, da un bell'articolo di Orazio Carabini riportato proprio sul volume Lezioni per il futuro, vi leggo: il mercato non ha una sua etica, non si autoregolamenta, non si aggiusta. Quindi avverte Carabini: abbiamo avuto molta fiducia nel mercato, ma il mercato ha mostrato tutti i suoi limiti, però funziona, soprattutto non ha alternative. Chi ora avverte attenzione a non introdurre regole che lo imbrigliano ha ragione solo in parte. Non servono lacci e lacciuoli burocratici, obblighi insensati destinati ad aumentare il potere di veto di qualche valvassore, ma non si può far finta che non sia successo nulla. Allora il mercato non va imbrigliato, ma regolato meglio, sorvegliato di più. È sbagliato affermare che negli ultimi due decenni non c'erano abbastanza regole, è mancato invece l'enforcement, ovvero non si è rivelato all'altezza del suo compito chi, forte di un mandato pubblico, avrebbe dovuto far rispettare queste regole. Così scrive Carabini nel volume Lezioni per il futuro. Poche pagine più avanti, Michele Ainis, che insegna istituzioni di diritto pubblico a Roma 3, svolge invece un ragionamento su alcuni valori fondamentali che sono stati messi a dura prova con la crisi. Uno di questi è il valore della uguaglianza, cioè l'uguaglianza che significa, nella accezione in cui lo utilizza Ainis, anche la possibilità che tutti hanno di migliorare il loro stato di vita e le loro condizioni di vita. Dice Ainis: la tempesta economica si è abbattuta su un mondo sempre più divaricato, sempre più diviso fra un'elite di privilegiati e l'esercito dei disperati. La forbice fra paesi sviluppati e terzo mondo, misurata sulla base del reddito pro capite, nel 1820 era 3-1, quindi un paese sviluppato aveva un reddito pro capite triplo di un paese invece cosiddetto del terzo mondo. Ma in meno di due secoli questa forbice è cresciuta in modo esponenziale e questa frattura si riproduce pari pari anche all'interno delle società avanzate. I rapporti ONU attestano che le disparità di reddito sono ulteriormente lievitate del 12% dopo gli anni 80 del Novecento. Da qui, avverte Ainis, il prosciugamento della middle class, quindi della classe media. Allora l'obiettivo, è la conclusione di Michele Ainis in questo saggio, deve essere magari non quello dell'uguaglianza assoluta, che è probabilmente irraggiungibile, ma quello di una disuguaglianza ben temperata. Lo trovate in Lezioni per il futuro, in vendita in questi giorni con il Sole 24 Ore. Continuiamo però a parlare di crisi, perché prendiamo da Newsweek una ricerca interessante Pensiamo a un buon lavoro, è più o meno il titolo con cui Katie Baker ci segnala questa ricerca. Che cosa sta succedendo? Che proprio in virtù della crisi, proprio a causa della crisi, gli americani si stanno domandando quale può essere un buon lavoro. Quindi non necessariamente un lavoro redditizio, ma anche un lavoro duraturo. Ed è stata condotta una ricerca in cui si mostra un po' lo smarrimento proprio di quella classe media di cui parlava Aynes nel suo saggio. Dice: gli americani dovrebbero probabilmente pensare meglio al fatto che alla loro scelta vogliono continuare a battersi, a studiare, a prepararsi per poi svolgere dei lavori sempre più ripetitivi, anche se di tipo intellettuale, o magari vogliono invece dare più spazio al lavoro manuale. E porta la testimonianza di un signore che si chiama Matthew Crawford, che è nato filosofo ma che adesso fa il riparatore di motociclette. Tanti anni fa andava di moda un libro, Lo Zen e l'arte della riparazione della motocicletta. Qui sembra di rileggere questo titolo del libro di Pirsig. Il filosofo, appunto, Crawford dice: dobbiamo superare questo tipo di dicotomia, questa separazione che avvertiamo tra il lavoro manuale, considerato da meno di un lavoro intellettuale, quando invece abbiamo visto, proprio in forza della crisi, che il lavoro intellettuale non è così duraturo, così sicuro come aveva promesso di essere. E restiamo ancora sulla crisi, perché sempre all'interno di Newsweek un lungo articolo di Robert Samuelson si interroga su un argomento che è tutt'altro che scontato: chi sono i ricchi? Perché chiedersi chi sono i ricchi? Beh, innanzitutto c'è un motivo di cronaca. Il presidente Obama ha indicato a $250,000 di reddito annuo la soglia oltre la quale bisogna aumentare le tasse, quindi far pagare più tasse ai cosiddetti ricchi. Ma Samuelson si chiede in primo luogo se quelli che stanno sopra i $250,000, che poi mal contati sono poco più di 200,000 euro, si sentono davvero così ricchi. E la risposta, ovviamente, specialmente se si sta vicini alla soglia, è no. Ad esempio, porta la testimonianza della moglie di un noto medico che dice sta intorno ai $260,000 di reddito medio annuo, e dice: quello che in realtà vorrei è che ci si domandasse davvero che cosa significa essere ricchi. Io riesco a pagare il mio mutuo, posso comprare dei vestiti, ce la sto facendo, ma non sto certo vivendo una vita di lussi. Questo riferisce, appunto, Samuelson. C'è un'altra testimonianza di un sindaco di un paese della California che dice che sta appena appena sopra i $250,000, e dice: in realtà questo è più o meno il livello della classe lavoratrice di alto livello che vive qui in California, nella Silicon Valley, appunto nella valle più tecnologica della California. Da queste prime considerazioni poi lo stesso Samuelson però pone anche delle altre questioni, appunto, su cosa significa andare a premere di più sulla classe più abbiente, se non vogliamo definirla ricca, perché questa classe più abbiente, questa categoria, ha in realtà tutta una serie di virtù forse non considerate o che comunque vanno tenute in attenta considerazione se si decide di aumentare loro le tasse. Ad esempio, ha una capacità di sostenere i consumi, ovviamente, naturalmente, più alta di quella delle altre classi, e soprattutto paga la maggior parte delle tasse. Segnala Samuelson: nel 2006 l'1% dei più ricchi degli statunitensi ha pagato il 28% di tutte le imposte federali. E inoltre questa popolazione è anche quella che sostiene il terzo settore, cioè le donazioni, in America certamente più favorite, più stimolate che non da noi. E infine è quella che mette a disposizione più volentieri il denaro per attivare direttamente o per il tramite dei fondi comuni, dei mercati borsistici, per attivare le nuove iniziative, cioè che mette a disposizione il denaro perché possa essere prestato a chi ha delle idee innovative di business. Quindi il fatto di insistere sui ricchi, voler intervenire con delle misure di aumento delle tasse, di aumento del prelievo, va considerato però anche in relazione a questo tipo di segnalazioni che fa Samuelson. Restiamo ancora un attimo su Newsweek, perché c'è anche qui Stieg Larsson. Stieg Larsson è onnipresente. Non so quanti di voi stanno approfittando delle vacanze o vorranno approfittare delle vacanze per leggere la sua monumentale, nel senso che è molto robusta come pagina, trilogia di Millennium, ci avvisa Newsweek che il successo planetario di Larson, ricorderete, ne aveva parlato nel Nouvel Observateur, ne hanno parlato i giornali italiani, ha fatto sì che ci sia un po' la caccia allo svedese, all'autore svedese, anche da parte di altri editori, soprattutto di editori di lingua inglese. Larson, come sapete, purtroppo è scomparso prima ancora di vedere successo la sua trilogia, ma ci sono altri autori svedesi che si occupano di scrivere gialli o libri più d'azione, su cui gli editori cominciano a puntare molto e guardare con molta curiosità. Qui ci segnalano Liza Marklund, che è un autore di bestseller in Scandinavia, molto meno conosciuto all'estero e sul quale gli editori stanno appuntando le loro attenzioni. Chiudiamo con una brevissima segnalazione dall'Espresso, cose veramente di tempi moderni. Mamma, ho perso la rete, è il titolo dell'articolo, dedicato ai nativi digitali. Chi sono? Sono tutti quelli che non hanno visto lo sbarco sulla Luna, per tornare da dove eravamo partiti. Sono quelli che sono nati dopo il 1990, quindi questi ragazzini, in questo momento ragazzi o ragazzini, e che hanno, avverte l'Espresso, Federico Ferrazza sull'Espresso, un modo di pensare e di apprendere molto diverso da quello che la scuola e i loro genitori pensano. Con questa segnalazione dell'Espresso io vi saluto, vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento con Magazine 24 a sabato prossimo. Ringrazio Filippo Ureggi in regia, Vittoria Mussini e Daniele Casagrande per l'assistenza al programma.